The Wild Line. Good music. We are the crazy people. Calamita, esplorazioni musicali tematiche a cura di Enrico Sisti, J Selector. Ciao a tutti, ecco qui Enrico Sisti, J Selector, come ogni lunedì per una nuova puntata di Calamita su Wild Line Radio. Che cos'è Calamita? Calamita è una playlist settimanale che cambia sempre. Ogni settimana ci concentreremo su un argomento, una suggestione, qualsiasi cosa, e la trasformeremo in una playlist musicale. Questa settimana l'argomento è legato ad una cosa molto importante nell'immaginario pop di chiunque: Star Trek. Tanti potrebbero dire: Star Trek è quella serie televisiva con il tipo con le orecchie così. Sì, esattamente, la serie televisiva con il tipo con le orecchie così. È una serie di fantascienza creata da un pilota dell'Air Force americana nel 1966, Gene Roddenberry, e in pratica è una serie che racconta una sorta di fantascienza umanistica. C'è questo equipaggio di questa astronave Enterprise, poi dopo scopriremo tutto quanto, scopriremo i vari personaggi che la popolano, e questa astronave compie un'esplorazione di 5 anni a scopi diplomatici e esplorativi nella galassia. Allora, ci ascoltiamo il primo pezzo di oggi per entrare nel mood Star Trek, che è la sigla, la famosissima sigla di Star Trek, in una versione di Montefiori Cocktail. Montefiori Cocktail è un duo di musicisti che dagli anni 90 facevano versioni lounge di vari pezzi, hanno fatto anche diverse colonne sonore di film, colonne sonore televisive. Sono i fratelli Francesco e Federico Montefiori, che sono i figli di un sassofonista, Germano Montefiori. Andiamo ad ascoltarci la loro versione del 1997 della sigla di Star Trek. We'll be right back. Stai ascoltando Calamita. Rieccoci qua. Avete appena ascoltato la versione di Montefiori Cocktail della sigla del tema d'apertura di Star Trek. Perché l'esplorazione musicale, la playlist musicale di Calamita di oggi è Star Trek, che è un universo narrativo incredibile, è diventato un franchise pieno di cose, di serie, sottoserie, film, libri, fumetti. C'è da perdersi. Noi ci focalizzeremo proprio sulla superficie, perché non vogliamo fare una cosa troppo da nerd. Però Star Trek è una serie molto importante, perché negli anni 60 raccontava l'esplorazione dei pianeti, raccontava gli incontri con altre razze e era anche una sorta di commentario sociale dell'epoca, molto meno superficiale e cheap e trash di quanto possa sembrare. Noi andiamo avanti con la nostra esplorazione musicale di Star Trek e ci ascoltiamo un pezzo del 1979. Le atmosfere si fanno più punk, fantascientifiche, con Spitz Energy, Where's Captain Kirk, brano appunto del 1979 di questo gruppo Spitz Energy, capitanato dal chitarrista e cantante Spitz, che cambiava sempre il nome del gruppo. Era una cosa un po' che mandava in confusione la gente. Spitz Energy, The Spitzels, Spitz Oil, Atletico, Spitz 80, cambiava sempre il nome questo disgraziato. Noi ci ascoltiamo Where's Captain Kirk, dedicata a Star Trek. Calamita, esplorazioni musicali tematiche a cura di Enrico Sisti J Selector, ogni lunedì alle 19.30 su Wildline Radio. E rieccoci qua con Calamita ed Enrico Sisti J Selector. Calamita è una playlist settimanale che cambia sempre seguendo un argomento diverso legato a una suggestione, a un tema. Facciamo un percorso musicale dedicato ogni lunedì alle 7:30 su Wildline Radio. Questa settimana è dedicata a Star Trek. Prima abbiamo ascoltato Wells Captain Kirk di Spitz Energy, che ci introduce un personaggio chiave di Star Trek, che è il capitano James Tiberius Kirk, a capo dell'Enterprise in questa esplorazione nello spazio. È un personaggio fondamentale, ma ce ne sono anche altri, come il famosissimo Spock. Spock è un alieno vulcaniano, la sua razza è vulcaniano. I vulcaniani sono un popolo molto particolare perché non hanno assolutamente emozioni. È una popolazione basata semplicemente sulla logica. E Spock, interpretato da Leonard Nimoy, era il primo ufficiale, è l'ufficiale scientifico dell'Enterprise. E noi adesso ci ascoltiamo un pezzo cantato da Leonard Nimoy nel 1968, un disco fatto per sfruttare il successo della serie televisiva, in cui Leonard Nimoy canta questa highly illogical, altamente illogico, in cui commenta quella che per lui è la vita sulla Terra, estremamente illogica. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy, they fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, four on the floor. Push-button windows, push-button doors. Double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can. Saves all his money, works overtime. Pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably, highly illogical. Lo senti il suono della calamita? E rieccoci nuovamente su Calamita con Enrico Sist, DJ Selector. Ogni settimana una playlist dedicata ad un argomento diverso. Questa settimana dedicato a Star Trek. Abbiamo ascoltato un pezzo cantato da Leonard Nimoy, che in Star Trek, la serie originale, interpretava il vulcaniano Spock. I vulcaniani sono una razza basata sulla logica e rifiutano totalmente le emozioni. Il prossimo pezzo, che è dei Millencolin, che erano un gruppo punk svedese, sono un gruppo punk svedese, nel 1996 proponevano questa Vulcan Ears, appunto chiedendosi orecchie vulcaniane. Le orecchie di Spock a punta, famosissime, iconiche, appunto chiedendosi come sarebbe bello un mondo senza emozioni. Andiamo ad ascoltarceli. In a tiny spaceship with four legs, a pillow and some cheese. Cause by my idols always meet, and I could be there now. I'm trying, trying every night to see a UFO. But in case I don't, yeah, just in case I won't, I got my fantasy to lean on. Vulcan eyebrows, Vulcan ears, that's what I dream of. No more sorrow, no more tears. Can't you get me beamed up? Vulcan logic, Vulcan needs. What is wrong but still a dream? Whilst I'm waiting for that beam. Bullshit, bullshit is all we talk. On this planet we call Earth. If there's no title of that, I'll take a further step. I think I'll find my way in space. Vulcan eyebrows, Vulcan ears. What I dream of. No more sorrow, no more tears. Well, can't you get me beamed up? Vulcan logic, Vulcan needs. What bizarre, but still a dream. Plus I'm waiting for that beam. In a tiny spaceship with four legs, a pillow and some sheets. That's where my idols always meet. I like to be there now. Vulcan eyebrows, Vulcan ears. No more sorrow, no more tears. Vulcan eyebrows, Vulcan. Calamita, attrazioni magnetiche sonore a cura di Enrico Sisti, DJ Selector. Qui su Calamita, puntata dedicata a Star Trek, abbiamo ascoltato Vulcaneers dei Millencolin, gruppo svedese anni 90, gruppo punk svedese anni 90. Proseguiamo sempre nell'onda del punk rock, però andiamo in California con un gruppo storico per il punk californiano americano più scanzonato. Sono i Dickies, che erano un gruppo, sono un gruppo perché ogni tanto recentemente si sono riformati. Sono un gruppo californiano punk che il punk all'epoca, i pezzi parlavano di disagio giovanile, di varie cose. I Dickies invece parlavano di stupidaggini, parlavano tantissimo, raccontavano la cultura pop. Per esempio, un loro singolo è dedicato a Gigantor, che era un robot giapponese, che è uno dei primi robot giapponesi arrivati in America negli anni 60. Poi hanno fatto un sacco di cover anche di cartoni animati di Hanna-Barbera, Tralala Songs dei Banana Splits. Quindi molto immersi nella cultura pop, e hanno dedicato nel 1995 un pezzo a Star Trek, che ne campiona delle parti e fa un sacco di riferimenti alla serie originale, ai protagonisti, a frasi, ad armi e a tutto quanto. Noi adesso ce lo ascoltiamo. We'll be right back. Stai ascoltando Calamita. Rieccoci qua, Calamita, con Enrico Sis, DJ Selector. Una playlist settimanale dedicata sempre ad un argomento diverso. Spaziando tra diversi generi musicali, esploriamo un argomento. Appunto, non prendetevi paura, i generi musicali cambiano tantissimo. È un'esplorazione frenetica la nostra, vi raccontiamo sempre cose diverse. Questa settimana capita a un pilastro della cultura pop che è Star Trek. Non andrò nello specifico a raccontarvi tante cose diverse, però vi faccio ascoltare delle cose. Adesso ci ascoltiamo un pezzo niente po' di meno cantato da William Shatner, che è l'attore che interpreta il capitano Kirk in Star Trek, ed è una cover abbastanza strana dei Common People, dei Pulp, da un disco Has Been, di cantato tra virgolette da William Shatner nel 2004, è prodotto dal musicista americano Ben Folds, e in questa cover di Common People dei Pulp ci sono addirittura anche i cori di Joe Jackson, quindi oro zecchino. Andiamo ad ascoltarcela. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out. Cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere to go. You're amazed that they exist. And they burn so bright while you can only wonder why. climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. The Wild Line, musica e passione. Hello. Tra 5 secondi l'ora esatta. Sponsor by Aperitivo Italiano. Ogni sera alle 7 su Wild Line Radio, selezioni musicali a cura di Renato De Amitens. Sono le 20 e 5 minuti. Stai ascoltando Wild Line. www.wildline.it. Energy Web Radio. Calamita, esplorazioni musicali tematiche a cura di Enrico Sisti J Selector. Ogni lunedì alle 19.30 su Wild Line Radio. Ecco qui Enrico Sisti J Selector che continua l'esplorazione di oggi di Calamita. In pratica, ogni settimana prendiamo un argomento e ci attacchiamo addosso delle canzoni diverse. Questa puntata è dedicata a Star Trek. Non voglio fare l'enciclopedia di Star Trek, sennò risulterei assolutamente nerd e noioso. Vi do un attimo delle pilloline musicali dedicate e che c'entrano con il mondo di Star Trek. Continuiamo la nostra esplorazione tenendo in considerazione un argomento, le armi in Star Trek. E il pezzo che ascolteremo adesso introduce il phaser. Il phaser è un'arma che emette dei proiettili di energia e ha diverse impostazioni. Questo pezzo, che è Phasers di King Ghidorah, ne cita una. Phasers on stun, impostate i vostri phaser su stordimento. King Ghidorah era l'alter ego di MF Doom, un rapper alternativo dell'area di New York molto particolare. Lui celava la sua identità da una maschera ispirata al Dottor Destino dei fumetti dei Fantastici 4, nemico dei Fantastici 4. E MF Doom era un appassionato di fantascienza, di cultura pop, e ha fatto questo disco come King Ghidorah. Ghidorah era un mostro, per non farsi mancare nulla, un mostro legato a Godzilla, era un drago dorato con tre teste. E MF Doom in questo alter ego racconta qualcosa legato ai phasers. Andiamo a ascoltarci Phasers di King Ghidorah, MF Doom, che è un pezzo del 2003. Follow the light. The light is your guide. I am controller of planet X. 3-3. And I've invited you here to discuss something that's very important. King Ghidorah, take me to your leader. Quick to claim that he not no snake like me neither. They need to take a breather. He been rhyming longer than Sigmund the Sea Creature. Been on Saturday Feature. Pleased to meet ya. And came to wake you up out the deep sleeper. Like he needed to stop before he caught the knee drop. Even give you one sit and sip than ZZ Top. With full bears thou shalt not more corner. Ghidorah like one more steps in y'all's corners. So-called rich front if you wanna. When he spit electrics, don't be in y'all saunas. You're only here to warn us what the plan is. The hour is up on us, it's bananas. Born alone, die alone, no matter who your man is. Hope you live long enough to tell it to his grandkids. King Pedro, three finger ring fever. Spring chicken eater, ID'd as the ringleader. Who needs a heater? Catch him with bare hands. These same hands that make razors out bear cans. His own biggest fan. And got a fan base as big as Japan. Yeah, and all hail the king. And give him three cheers, fam. Like hit hit parade. Do his thing for the little kings like Sling Blade. To the grave, put in work like a slave. On how to flip scripts on the dipstick brigade. Rock a mic, su su su, the old play. Back when we used to rock the shag, no fade. This skill trade like a tailor-made suede. Hit the studio, and I'm paid. Half up front, half upon mastering. Would you like that in cash? Last thing you should ask the king. You don't have to be no crystal ball reader. Allergic to saltpeter, used to be a wall beater. In the game like a Wall Street cheater. A lot of rap noise is annoying like cedar. Turn it to a triple X monster from a fairy tale movie. He don't know me very well, do he? King Ghidra crushed on the scene's teacher. They need to pay him better, she had nothing on the reefer. Heifer, and I had to offer her a stick of gum. She was as thick as they come and taught a strict curriculum. Which is only good for my son. When I'm in the hood, raises on tongue. Nowadays, it's amazing raising young. Rule number one, keep your phasers on stun. Calamita, attrazioni magnetiche sonore a cura di Enrico Sisti, DJ Selector. E siete sempre qui su Calamita, playlist che cambia sempre, dedicata ad un argomento sempre diverso ogni lunedì qui su Wide Line Radio. L'argomento di questa settimana è Star Trek. Abbiamo ascoltato King Ghidorah o King Ghidorah con Phasers. King Ghidorah è l'alter ego di MF Doom, un rapper newyorkese scomparso da poco, e adesso ci ascoltiamo un pezzo. Siccome King Ghidorah parlava dei Phasers nella sua canzone, Phasers, all'ultima frase del pezzo diceva Phasers impostati su stordimento, adesso con la prossima canzone una nuova caratteristica dei Phasers. Phasers on Kill degli Screeching Weasel, un gruppo punk di Chicago che nel 1996 avevano fatto questa canzone dedicata, tra le altre cose, cita Star Trek. Cause the fish is up. Lo senti il suono della calamita? Calamita, puntata dedicata a Star Trek con Enrico C. DJ Selector su Wildline Radio. Abbiamo appena ascoltato un gruppo punk di Chicago, gli Screeching Weasel, 1996, Phasers on Kill. I phasers erano le armi usate nella serie originale di Star Trek, impostati su uccisione o stordimento o uccisione. Uccisione è un po' più raro, però può capitare. Proseguiamo la nostra playlist dedicata a Star Trek attraverso i generi con un pezzo assolutamente divertente e un po' trash. Arriviamo all'Eurodance degli anni 90 con il gruppo metà austriaco metà tedesco degli Edelweiss, che in un pezzo da discoteca, un pezzo dance, citavano spesso in maniera assolutamente scanzonata e divertente la serie di Star Trek. Eccoli qua. Space, the final frontier. Discover a new dimension of traveling. Edelweiss Space Tours, where no man has gone before. ascoltando Calamita. Calamita, puntata di oggi a cura di Enrico Sid DJ Selector, dedicata a Star Trek. Abbiamo ascoltato Edelweiss con Starship Edelweiss, ispirato a Star Trek 1992, e adesso rimaniamo negli anni 90 con un pezzo con un'atmosfera totalmente diversa, che non c'entra strettamente con l'universo di Star Trek, ma c'entra perché in due film del recente reboot, la nuova versione al cinema di Star Trek con nuovi attori, i Beastie Boys, ci sono due pezzi dei Beastie Boys, lo stesso pezzo, no, altri pezzi, anche c'è anche un altro pezzo in un altro film. Però ci sono i Beastie Boys in Star Trek, nell'universo di Star Trek. Perché? Perché i Beastie Boys hanno talmente citato così tanto da fan nelle loro canzoni di Star Trek che il regista J.J. Abrams e gli sceneggiatori hanno deciso di metterli nel canone di Star Trek con questa famosissima, dirompente Sabotage da License to... No, pardon... Il Communication del 1994. Calamita, ogni lunedì alle 19.30 su White Line Radio, la radio della tua città. Enrico Siste ancora qui con voi, puntata dedicata a Star Trek. La suggestione di oggi è Star Trek. Abbiamo preso diversi pezzi legati a questa famosa serie televisiva che è diventato un franchise terminato con libri, fumetti, film e tantissimi altri prodotti di intrattenimento. noi abbiamo dato una spolverata soprattutto parlando dei personaggi della serie originale. Adesso siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di oggi e chiudiamo con un artista italiano, un controverso artista italiano, Bugo, Christian Bugatti, in arte Bugo, che nel 2006 dall'album Sguardo Contemporaneo dedicava una canzone a Spock e all'universo di Star Trek. Oggi è morto Spock. Noi adesso ci ascoltiamo questo pezzo e io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima con un nuovo argomento da esplorare, con una playlist. E ricordate, cercatemi su Facebook o alla fine degli arcobaleni e proponetemi dei feedback, degli input legati a possibili scalette, possibili argomenti da esplorare con una playlist musicale il lunedì. A vostra disposizione, ragazze e ragazzi. Ci ascoltiamo Bugo con Oggi è morto Spock, puntata dedicata a Star Trek. Ciao ciao a tutti, a lunedì prossimo. Oggi è morto Spock. Oggi è morto Spock. È stato ucciso dalle radiazioni. E ci mancherà. Sì, ci mancherà. Ora è nata una nuova stella. La fantascienza è bella. La fantascienza è bella. Avventure di Star Trek. Le avventure di Star Trek mi ricordano quella sera in cui mi mancava già e mi sognavo là. La tua favolosa. La fantascienza è noiosa. La fantascienza è noiosa. Oggi è morto Spock. L'hanno lanciato nello spazio. La serie finirà. La serie finirà. Quanti ricordi persi in aria. La fantascienza è necessaria.